e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua. Allora, piovuto ha piovuto, quindi sì, speriamo che l'acqua sia un po' più pulita. Io sono un po' raffreddatina, quindi mi devi coccolare molto stamattina. Certo. Hai anche pronta? Un po' di mal di gola? No, quello no. Va bene, questo come è senti? Passato. La mia chiacchiera è sempre ottimamente messa. Quindi siamo pronti per partire. Direi di sì, possiamo andare immediatamente. Allora, la prima cosa che facciamo naturalmente è partire con la giornata di borsa e la settimana di borsa. Moderatamente tranquilla la seduta di Piazza Affari, che adesso perde sul FTSE MIB lo 0,09%. Anche le altre piazze europee sono abbastanza tranquille e prudenti. All'inizio della giornata non sapevano bene che direzione prendere, adesso sono positive Parigi più 0,19%, Francoforte più 0,03%, Londra più 0,24%. Da ricordare che venerdì scorso Wall Street è tornata a toccare nuovi record, in particolar modo sul Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici, anche il Dow Jones ha chiuso di nuovo sopra i 20.000 punti, e questo dopo la pubblicazione del dato sulla disoccupazione di gennaio, che ha mostrato una risalita del tasso percentuale al 4,8%. Ma lo scorso mese l'economia americana, forse incoraggiata anche dalle promesse di Trump, è riuscita a creare 227.000 nuovi posti di lavoro, e questo dato appunto ha fatto confermare che per gli Stati Uniti il mercato di lavoro sia in piena salute, e quindi ha incoraggiato anche gli ordini d'acquisto sul mercato azionario. La borsa europea, come vi dicevo, parte abbastanza prudente questa settimana, con dei casi già naturalmente da tenere sotto osservazione a Piazza Affari. In primo luogo Unicredit, che sta perdendo adesso il 2,14%. Oggi parte l'imponente aumento di capitale da 13 miliardi. È un'operazione anche piuttosto complicata. I nuovi titoli che vengono offerti agli azionisti sono nel rapporto di 13 azioni ordinarie nuove ogni 5 azioni ordinarie o di risparmio già detenute. Il titolo sta perdendo appunto circa il 2,2% e porta giù anche la controllata Fineco Bank, di cui nei mesi passati sono stati ceduti numerosi pacchetti. Altri ribassi segnaliamo generali, meno 0,8%, non abbiamo oggi sostanziali novità rispetto a tutta la possibile offerta che potrebbe lanciare Intesa San Paolo appunto per acquisirla. Bocce ferme a quanto pare in casa di Intesa, si sta ancora meditando sul da farsi. Bene invece stamattina CNH Industrial, i trattori di casa Fiat, che vanno molto bene negli Stati Uniti, il titolo in rialzo di 4,5 punti dopo i conti di settimana scorsa. Telecom Italia più 3,30%, oggi i manager del gruppo sono tutti a New York, non per fare una gita né per incontrare Trump, ma per presentare alla comunità finanziaria i dati preliminari della chiusura del 2016 e poi l'aggiornamento del piano industriale 2017-2019. Bene Saipem più 1,45%, Yuxe Net-a-Porter più 1,41%. Ricordo un ultimo appuntamento: Mario Draghi oggi ha un'audizione alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. Un veloce approfondimento della rassegna stampa appunto di denari. Allora, cara Nicoletta, ti ricordi nella nostra Investire Informati abbiamo conosciuto, abbiamo avuto il piacere di conoscere l'onorevole Maurizio Bernardo, presidente della Commissione Finanze della Camera e autore di una proposta di legge per la nascita di un'agenzia nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria e dell'informazione finanziaria. Certo. Allora, è tornata a trovarci questa mattina, intanto sentiamo se è tutto a posto con il collegamento telefonico. Bernardo, buongiorno, benvenuto, ben ritrovato a Cuore Denari, grazie. Grazie, buongiorno a voi. Ci sente, buongiorno. Eccoci qua. Allora, eccolo. Perché l'abbiamo dovuto disturbare proprio all'inizio della settimana? Perché questo provvedimento contento, sicuramente contento. Lo stesso. È vero? Contento. Sì, assolutamente. Bravo. Sì. Mi scuso perché sono in Israele. Ai, ai, ai. Io non volevo svelarlo, invece lui candidamente lo confessa. Però nonostante sia in trasferta, ha voluto lo stesso aggiornarci su questa notizia molto importante. Perché, allora, noi lo abbiamo intervistato molte volte nei mesi passati e ci aveva garantito, perché il percorso parlamentare sembrava già tracciato, che il provvedimento sull'educazione finanziaria italiana che disegna questa cabina di regia, questa strategia nazionale, potesse essere varato appunto a dicembre. Poi, per questioni di referendum e tutta la bagarre politica che c'è stata, abbiamo dovuto rinviare tutto, almeno nelle intenzioni di Bernardo e dello staff che lo segue appunto in questo progetto, c'era quella appunto di portare a casa tutto a gennaio. E come però? Siccome è stato approvato a dicembre il provvedimento di legge, il salva risparmio, quello che ha consentito, tra virgolette, il salvataggio di Monte dei Paschi, allora per velocizzare le operazioni, Bernardo che cosa ha detto? Questo provvedimento nostro, questo disegno di legge nostro, lo confezioniamo come emendamento, lo inseriamo nel pacchetto appunto di legge sul salva risparmio, così va tutto avanti velocemente e possiamo portare a casa questo risultato. Novità, il 26 gennaio c'è stato lo stop della Commissione Bilancio del Senato, perché è stato detto non c'è copertura finanziaria secondo l'articolo 81 della Costituzione e quindi dobbiamo bloccare tutto, l'educazione finanziaria non va avanti. Venerdì scorso un'altra novità, un altro passo indietro. Bernardo, lo lascio raccontare a lei perché ci sembra una buona notizia, anche se non è che portiamo a casa tutto il provvedimento come lo volevamo, però insomma questa copertura finanziaria, anche se parziale, poi è venuta fuori. Ci racconta un po' cosa è successo venerdì? Innanzitutto grazie dell'attenzione che voi dedicate a questo argomento, ma so che come solo 24 ore, Radio 24, avete fatto una grande battaglia nell'interesse dei cittadini italiani. Ci proviamo. Detto questo, siamo arrivati a che sia stato inserito all'interno del decreto salva risparmio o decreto banche comunemente chiamato, proprio per snellire il procedimento di approvazione. Questo significa che nel corso delle prossime settimane, io credo al massimo tre, l'Italia si doterà di una legge che riguarda l'educazione finanziaria. Al momento non è contemplata la parte che riguarda la scuola, perché sarà un capitolo a sé, ma fondamentale è questa iniziativa che riguarda la cabina di regia, il coordinamento all'interno del Ministero dell'Economia, ma con la presenza anche del Ministero dell'Istruzione e dello Sviluppo Economico e grandi stakeholder istituzionali che daranno le linee guida, le linee di indirizzo per promuovere su tutto il territorio italiano, coinvolgendo anche il mondo delle categorie produttive, degli ordini professionali, delle università, delle no profit, realtà come la vostra, per avere sotto un'unica egida una uniformità di azione nell'interesse dei cittadini italiani, ma anche dello stesso mondo della finanza, esatto. Oggi necessario in questo sodalizio tra risparmiatore e mondo della finanza. L'ultimo grande appuntamento nel corso del quale si è parlato di tutto ciò, lo ricordiamo, onorevole Bernardo, è stato il 18 gennaio in occasione della presentazione a Roma del censimento nazionale di tutte le iniziative che vengono portate avanti nel territorio, che sono state portate avanti in questi anni appunto di educazione finanziaria. Oltre 200 soggetti interessati, abbiamo già detto proprio con la responsabile dell'antiriciclaggio della Banca d'Italia, Magda Bianco, di come effettivamente abbiamo avuto modo di testimoniare anche ai nostri ascoltatori, chi ha partecipato quel giorno a quelle evento, che in Italia sull'educazione finanziaria, nonostante tutto quello che si dice, non siamo all'anno zero. Allora, con questo provvedimento legislativo, secondo lei, che cosa possiamo ufficialmente dire di far partire? Lei ci diceva che parte questo comitato nazionale, la risorsa finanziaria serve anche appunto per portare avanti nel concreto poi queste iniziative, i primi passi del comitato nazionale, poi quali saranno concretamente? Beh, innanzitutto un'istituzione formale da parte del governo e del Ministero dell'Economia, di questo coordinamento che vede presenti una decina di soggetti, a parte i ministeri, ma vi sarà presente anche Banca d'Italia, Consob, gli organismi di vigilanza del mondo delle banche, della previdenza e delle assicurazioni, e anche il mondo dei consumatori. Questo coordinamento si darà un regolamento di lavoro e delle modalità anche dal punto di vista della tecnologia e dei mezzi di informazione, quindi sia televisivi, della carta stampata e del web, come canali di informazione e di diffusione di quelle linee guida necessarie e utili per dare uniformità alle tante iniziative che in Italia esistono, ma attraverso dei progetti che verranno valutati a livello nazionale su tutto il territorio, quindi presentati attraverso iniziative pubbliche di diffusione in termini di informazione, perché quindi ci sia un coordinamento su tutto il territorio, coinvolgendo, come ricordavo prima, realtà esterne che già fanno del loro, ma chiaramente i risultati e l'attualità non sono stati sufficienti. Quindi vuol dire che si insedia da qua a breve questa cabina di regia e così saranno dei momenti pubblici per raccontare come bisogna presentare questi progetti e muoversi sul territorio, comprese anche le scuole. Ecco, poi sulla scuola, in 30 secondi, onorevole Bernardo, se ce la fa, visto che lei ci ha detto lì bisognerà portare avanti una strategia indipendente perché è stata stralciata da questo pacchetto di cui abbiamo parlato fino a questo momento, lì come intendete muovervi? Se poi ce la farete, perché qua bisognerà vedere anche se quest'anno si andrà ad elezioni o meno e tutto si riazzererà per ricominciare poi magari con un'altra legislatura. Ce la fa in 30 secondi, Bernardo, a dirci cosa avete in mente? Per quello che riguarda la scuola, già le iniziative che ci sono coinvolgendo il mondo esterno andranno avanti, perché nell'autonomia della scuola e dei singoli istituti, verrà pensato un decreto a sé per trovare ulteriori risorse. Oggi ne abbiamo impostato 1 milione di euro perché parte il coordinamento a livello centrale, poi si parlerà anche di scolarizzazione per capire che risorse umane dotare. Benissimo, allora ci riaggiorneremo presto quando tornerà dalla sua vacanza da Israele. Grazie Bernardo, buona giornata e buon proseguimento. Grazie a presto. A voi. Buona giornata. Insomma, abbiamo rifatto un punto della situazione. Qua si balla un po' con questo provvedimento di legge, però noi intanto lo seguiamo passo passo, sperando di poter raccontare anche della partenza formale di questa strategia nazionale. Dobbiamo fare le madrine, ci tengo molto in questo battesimo. Ottimo. Allora, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo insieme per la rassegna stampa di cuore. Vi aspettiamo. Cuore e denari. Allora partiamo di corsa per la rassegna stampa di salute e parlando di corsa. Nel weekend siete andati a correre, qui a Milano il tempo non è stato clemente, ma l'Italia, come si dice, è lunga, quindi fateci sapere se vi siete infilati le scarpette e siete usciti per la vostra corsetta. D'altra parte, Deborah, se sono 39.000 i maratoneti italiani, ma quelli che secondo i dati sono della rivista Correre, secondo i dati sono questi gli italiani che hanno concluso almeno una 42 chilometri in Italia o all'estero nell'ultimo anno, quindi qualcuno correrà anche di domenica per allenarsi, se no ecco. Allora, comunque ho una buona notizia per tutti gli stregati dalla corsa: le vostre ginocchia, cari amici, sono salve, non rischiate l'artrosi, potete correre felici e contenti, senza timore per le vostre articolazioni, che noi tra l'altro, come sapete, ma se non lo sapete ve lo diciamo ora, abbiamo molto a cuore, tanto da dedicare alle articolazioni un intero mese con consigli, attenzioni e suggerimenti per aiutarvi a mantenerle sane ed efficienti. Perché la salute viene parlando, questo è il nome dell'iniziativa che ci vede a fianco degli specialisti di Humanitas, e in linea con noi abbiamo il professor Carlo Selmi, responsabile di reumatologia e immunologia clinica all'ospedale Humanitas, docente all'Università degli Studi di Milano e il nostro esperto del mese. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Professore, uno studio pubblicato, io direi con un tempismo perfetto, così noi lo possiamo citare perché siamo proprio nel mese delle articolazioni, ci dà l'occasione di guadagnarci le simpatie dei maratoneti, perché li salutiamo subito con una buona notizia. La notizia è sicuramente eccellente, nel senso che quest'anno abbiamo ricevuto moltissima attenzione da parte della ricerca sulla corsa, e credo che questo rifletta quello che dicevate poco fa, dell'enorme crescita di questo movimento di opinione e di salute in Italia. Lo studio è particolarmente interessante perché fa correre alcuni corridori non particolarmente dotati, non particolarmente intensi, per 30 minuti e va a vedere quelle che sono la produzione delle citochine infiammatorie, cioè quelle, diciamo, la voce del sistema immunitario che chiama altre cellule e crea infiammazione a livello delle ginocchia. Sì. Il dato forte è che dopo 30 minuti in realtà la maggior parte di queste citochine si riducono e comunque non aumentano, quindi la corsa non ha un effetto infiammatorio sulle nostre ginocchia. Quindi corsa promossa, però professor Selmi, ci sono anche delle attenzioni, delle raccomandazioni che è bene sapere o ricordare per chi già le sapesse. Beh, certamente l'indicazione non può essere universale. Allora, è ovvio che per esercitarsi in questa disciplina, che è sicuramente molto provante anche sul nostro cuore, sui nostri polmoni, è indispensabile sottoporsi a una valutazione medica agonistica o non agonistica prima di iniziare. Dall'altra parte, il disturbo articolare può essere di tipo che prevenga appunto e renda meno indicato questo sport. Quindi va valutato caso per caso. Quello che sappiamo oggi con abbastanza certezza è che correre non mette a rischio di avere dal nulla un'artrosi delle ginocchia. Credo che questa sia una notizia che rispetto al passato è rivoluzionaria per chi ha questa passione. Per evitare comunque di attaccare le scarpette al chiodo, è importante scegliere le scarpe giuste. Professor Selmi, la scarpa fa la differenza? Assolutamente sì. Non andiamo a correre con le scarpe da ginnastica, perché poi avvertiamo tutti i dolori e dolorini, ma poi la postura ne risente e a cascata poi tutti i problemi che ne possono derivare. Professore? Certamente sì, la maggior parte dei corridori è un cosiddetto pronatore, cioè quelli che diciamo tendono a crollare verso l'interno. E in questo senso le scarpe con un adeguato sostegno devono essere incoraggiate. Poi esiste tutto un movimento di persone che corrono senza sostegno, con lievi coperture o addirittura piedi nudi, ma credo che questo sia qualcosa di ancora non incoraggiabile a livello universale. Tra l'altro alla scarpa è proprio dedicato un approfondimento che potete leggere sulle pagine del programma. Comunque, se volete saperne di più, andate sulla pagina dedicata al mese delle articolazioni, andateci naturalmente anche se non correte, se non siete sportivi, consultateci 800 24 00 24, ma scrivete a salute@radio24.it tutte le volte che volete sapere di più oppure avere un consiglio, e invece che accontentarvi della consulenza un po' generica del dottor Google, pensate di meritarvi una risposta corretta, puntuale di un esperto qualificato. Noi ci mettiamo la voce e anche la faccia e soprattutto la consulenza dei medici migliori, sono gli specialisti di Humanitas, a voi come si dice la scelta. La pagina comunque è caldamente consigliata a tutti coloro che hanno a cuore le loro articolazioni, quindi cervicale, polso, spalla, schiena, ginocchia, piedi e chi più ne ha più ne metta. Professore, abbiamo parlato di corse, abbiamo fatto cadere un tabù, chi corre non è destinato ad avere l'artrosi, ma le articolazioni si usurano, è un processo inevitabile che possiamo però rallentare. Ci dia la ricetta. L'usura delle articolazioni è quella che si chiama generalmente artrosi, quella che va a consumare prima la cartilagine che riveste le ossa che sono vicine appunto nell'articolazione. Questo è un fenomeno difficilmente reversibile, ma sul quale hanno sicuramente un effetto accelerante il peso, soprattutto nelle persone sovrappeso, obese, e la familiarità, quindi aver avuto un parente con una storia di artrosi. Come agire? Mantenere l'articolazione in uso, mantenere un peso adeguato ed evitare gli altri fattori di rischio più metabolici, quali il diabete, quali tutto quello che porta ad un'alterazione anche del rischio cardiovascolare, che è molto legato anche alla salute delle nostre articolazioni. Articolazioni che sono di grande interesse, la nostra iniziativa sta riscuotendo molto successo, arrivano molte richieste di consigli, arrivano anche dei casi specifici, tanto che abbiamo, professor Selmi, pensato, con l'autorizzazione naturalmente del professor Selmi, pensato di aggiungere anche un'altra voce, che sono i casi del professor Selmi. Professore, le stanno arrivando mail da tutta Italia, alcune proprio con indicazioni pratiche. Naturalmente sottolineiamo che non si possono fare diagnosi via mail, ma sicuramente il professor Selmi può darvi delle indicazioni. Professore? Ho ricevuto davvero moltissime domande, e questo naturalmente mi fa un grande piacere e dimostra l'attenzione che c'è per l'argomento. Da parte mia massima disponibilità a rispondere, anche con la curiosità di saperne di più, spesso questo non è possibile, ma certamente da parte mia appunto mi impegno a rispondere a tutti. Professor Selmi, torniamo alla corsa, perché tra i nostri ascoltatori ci sono molti runner, ma noi li traduciamo come persone che corrono. Il dolore durante l'allenamento è un dolore che deve spingere la persona a fermarsi, oppure si stringono i denti e si va avanti? Questo così rispondiamo ad Antonio, che ci ha mandato un WhatsApp. E sulle lunghe distanze qualche dolorino è pressoché da aspettarsi, sarebbe normale il contrario. Generalmente la maggior parte dei dolori passano man mano che si va avanti con la corsa. Se questo non avviene o si vede come dire una ricorrenza frequente dello stesso dolore, è opportuno cercare una valutazione per capire se non ci sia un danno che vada invece affrontato dal punto di vista medico. Franco, andando a correre, ci scrive: è uscito lo scafoide accessorio al piede destro. Una cosa complicatissima. Questo e allora, mi devo operare. E allora, risposte di questo tipo sicuramente per telefono non è possibile darle, ma professor Selmi, forse questo SOS di Franco le suggerisce un'indicazione per chi il problema non ce l'ha ancora ma vuole evitarlo. Ma generalmente una lastra, una semplice RX del piede può aiutare in questi casi. Per fortuna di Franco e mia non sarei io comunque ad operarlo. e quindi a quel punto una valutazione ortopedica, soprattutto di ortopedici dedicati alla salute del piede, credo che sia sicuramente da incoraggiare. Perché ci sono ortopedici delle mani e ortopedici dei piedi, professor Selmi. L'ultra specializzazione è il futuro, è il presente e il futuro della medicina, per cui sicuramente, sebbene l'ortopedia e la traumatologia abbiano comunque un respiro generale, oggi sempre di più le cure sono dedicate alla specifica parte del nostro scheletro. Allora, un'ultima domanda, perché ormai è diventato un botta e risposta. Cosa ne pensa il dottore dei gruppi di cammino? Ma penserà super bene dei gruppi di cammino, professor Selmi, sì o no? Assolutamente sì. Allora, assolutamente promossi sì. Anche i gruppi di cammino. Voi intanto sostenete la nostra iniziativa, continuate a scriverci, a consultare la nostra pagina. Professore, grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E noi andiamo a sentire che cosa ci racconta il nostro GR. E poi torniamo e parleremo di unioni civili. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Miau. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Cuore e denari. Qua ci vuole una bella cantata di inizio settimana. Allora, è giunta al traguardo proprio operativo la norma che ha introdotto in Italia la disciplina della formalizzazione delle scelte di vita in comune delle persone omosessuali, e quindi ritorniamo un po' sulla legge Cirinà che ha introdotto questo nuovo istituto giuridico appunto nel nostro paese. Sono stati proprio di recente varati 3 decreti legislativi che mancavano, sono il numero 5, 6, 7 del 19 gennaio, e per tutti gli appassionati di parametri e riferimenti di legge ricordo che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale numero 22 del 27 gennaio, quindi questi 3 decreti sono ufficialmente partiti l'11 febbraio con la loro piena operatività nell'ordinamento italiano. Con questo pacchetto di 3 decreti legislativi appunto sono state adottate tutte le disposizioni necessarie affinché si potesse provvedere all'armonizzazione tra le norme già esistenti nell'ordinamento che regolavano gli aspetti della disciplina del matrimonio e quelle introdotte dalla legge 76 del 2016, appunto la legge Cirinnà, che costituisce l'atto di nascita di una forma diversa di contratto nuziale, quello tra persone dello stesso sesso. In questo modo è diventato possibile equiparare sostanzialmente sotto ogni aspetto avente a che fare con diritti o interessi pubblicamente riconosciuti i coniugi agli uniti civilmente. E noi facciamo allora un punto della situazione proprio chiedendo come sempre anche la collaborazione degli ascoltatori all'800 24 00 24. Vogliamo sapere tutto da parte vostra in materia di unioni civili. Questa nuova disciplina vi riguarda direttamente, riguarda un vostro caso, c'è qualcosa che non vi è chiaro, qualche curiosità che avete sul nuovo impianto di diritti e doveri introdotti l'anno scorso e che vengono confermati da questi decreti legislativi? Allora potete chiamarci all'800 24 00 24, ci potete scrivere al 349 238 6666, inviandoci sia gli sms che i messaggi attraverso WhatsApp. Perché insisto stamattina molto sulla vostra collaborazione in diretta? Perché ci piace molto, ma... Prima cosa, perché ci piace l'argomento. Secondo, perché ai primi 5 che ci chiameranno, ai primi 5 sms che arriveranno e ai primi 5 whatsapp che ci verrete inviare, regaleremo appunto una guida del Sole 24 Ore dedicata proprio alle unioni civili. Ne abbiamo tante a nostra disposizione. Quindi per sono cui... 15. 5, 5, 5. Bravissima. Dai. Allora, naturalmente, sì, potete raccontarci le vostre esperienze, potete anche formularci delle domande. Non rispondiamo io e Nicoletta, perché conosciamo la norma solo a livello appunto, come dire, superficiale, gli aspetti tecnici sono tanti. Allora, per farci aiutare a comprendere qualcosa di più, abbiamo reinterpellato un esperto, Gianluca Abate, consigliere nazionale del notariato con delega al terzo settore. Notaio Abate, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, ci spiega subito quali sono gli aspetti che vengono chiariti e definiti in modo più diretto dai decreti che ho citato poco fa. Ci sono voluti dei mesi affinché tutta la norma appunto diventasse pienamente operativa. E quindi cosa cambia rispetto alla condizione precedente con questi tre decreti, il numero 5, 6 e 7 del 19 gennaio? Sì, come lei ha giustamente anticipato, la caratteristica principale delle unioni civili come introdotta dalla legge Cirinà è che trattasi di un istituto riservato a persone del medesimo sesso, quindi l'architrave di tale impianto normativo è l'identità di sesso tra i partner. L'aspetto importante da ricordare è che non è stata prevista dalla legge Cirinà una disciplina specifica, ma l'istituto è stato costruito con continui richiami alle norme sul matrimonio. Quindi Certo. Adesso con i decreti a cui lei ha fatto giustamente riferimento e che spiegheranno i propri effetti dal prossimo 11 febbraio, la legge 76 2016 è stata integrata con riferimento a determinate materie, in particolare per quanto riguarda la normativa sullo Stato civile, quindi quella concernente la concreta costituzione dell'Unione civile, gli adempimenti che devono essere portati avanti dai partner che vogliano optare per Unione civile. Ancora è stata integrata la normativa sul diritto internazionale privato e quindi qui ci riferiamo a quelle unioni civili che hanno un profilo di internazionalità. Perché quindi ad esempio chi è che si è già sposato all'estero per capire se può... Esattamente, perché costituite all'estero da cittadini italiani oppure perché uno dei partner è di diversa nazionalità. E l'altro decreto invece riguarda il diritto penale, cioè si riferisce proprio alla equiparazione con riguardo a determinati reati tra lo status di coniuge e quello di persona unita in una unione civile. Le ricadute economiche, notaio, delle unioni civili in quale dei tre decreti sono disciplinati? I tre decreti a cui abbiamo fatto riferimento si riferiscono unicamente a queste materie. Okay. A queste materie, quindi l'aspetto formale, il diritto internazionale e il diritto penale. Per l'altra fattispecie di unione che è stata introdotta dalla legge Cirinnà, i patti di convivenza appunto, in questo caso i decreti di cui parliamo non sono intervenuti anche su quella materia? Viaggia su un binario diverso rispetto alle unioni civili? Assolutamente, i contratti di convivenza continuano ad oggi ad essere disciplinati unicamente dalla legge Cirinnà, non sono interessati dai decreti 5, 6 e 7 che entreranno in vigore il 11 febbraio. Allora, mi piacerebbe adesso sapere, io seguo peraltro anche le linee guida della guida del Sole 24 Ore perché era molto chiara, vorrei capire poi concretamente come si costituisce un'unione civile, quali sono i passi formali e concreti che bisogna fare e tra l'altro ricordando anche, ho avuto modo di confrontarmi con la senatrice Cirinnà proprio un paio di settimane fa in occasione di un evento a Milano e ci ha raccontato quanti sindaci anche sul territorio in realtà avessero non tantissimi, però qualcuno insomma ci ha provato a fare un po' obiezione di coscienza e non ha permesso per esempio non mettendo a disposizione l'aula proprio del municipio appositamente dedicata ai matrimoni e peraltro mi ha anche spiegato che adesso non so notaio se lei ne è informato che nella targhetta che è apposta alla porta di questa sala dei municipi appositamente dedicata ai matrimoni appunto ai riti del matrimonio che si svolgono davanti al sindaco naturalmente deve essere anche apposta una targhetta unioni civili, ne sapeva qualcosa? È così? Confermo. Quindi insomma è un aspetto, insomma una rivoluzione interessante. Allora, per costituire un'unione civile, I futuri partner, a chi devono presentare la richiesta? Quali sono i primi passi che devono essere fatti, notaio? Allora, i futuri partner devono presentare la richiesta all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi comune da loro scelto, quindi non deve essere necessariamente il comune di residenza, e quindi il primo passo consiste nel dichiarare le proprie generalità, quindi nome, cognome, data, luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza, nonché, questo è molto importante, deve essere dichiarata l'insussistenza di cause impeditive alla costituzione dell'unione civile. Quale può essere una causa? Per esempio, se una delle persone è già sposata, si è già costituito un'unione civile, in tal caso gli è la preclusione e l'impossibilità di concluderne un'altra. E dopo questo primo passo l'ufficiale redige un processo verbale in cui riporta tali dati e quindi l'identità delle persone comparse davanti a lui, la richiesta a lui fatta, e ricordiamo è possibile anche che la dichiarazione può essere resa non esclusivamente dai partner ma anche da chi li rappresenta, quindi qui c'è anche qui una sorta di similitudine con il matrimonio per procura. Poi vi sono le verifiche, l'ufficiale di stato civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni e può quindi anche acquisire d'ufficio eventuali ulteriori documenti che ritenga necessari proprio per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile. E queste verifiche vanno effettuate nel termine di 30 giorni dalla redazione del processo verbale con il quale lui ha acquisito la dichiarazione. Certo. Trascorso questo termine, o anche prima, se le verifiche sono state ultimate in tempi più brevi, deve darne l'ufficiale di stato civile dichiarazione ai partner richiedenti e le parti possono quindi concretamente ripresentarsi dinanzi a lui per costituire l'unione civile. Certo. E questa costituzione va fatta personalmente, congiuntamente, alla presenza di due testimoni e consiste nel rendere la dichiarazione di voler costituire concretamente, dopo aver adempiuto a questi oneri formali, l'unione civile. C'è un'equiparazione piena quindi al matrimonio. Notaio Abate, è vero che non ci sono le pubblicazioni? Ci sono le pubblicazioni, è vero. Per le unioni civili, vedi tanti altri aspetti. Come le dicevo, l'istituto è disciplinato con il rinvio alle norme sul matrimonio e anche a quelle del divorzio, ma non sono previste le pubblicazioni, come non si passa per la separazione in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti dell'unione. Certo. Il luogo di costituzione dell'unione civile è la casa comunale. Esatto. Ecco, cosa significa esattamente? Beh, la casa comunale quindi è la sede del comune, però va detto che in caso di infermità o di altro impedimento giustificato è possibile che richiedere all'ufficiale di stato civile che la costituzione avvenga nel luogo in cui trovasi la parte impedita, perché magari allettata, affetta da disabilità. Una domanda molto concreta, notaio Abate, la scelta del cognome. Ricordiamo come avviene per il matrimonio e come funziona invece per l'unione civile. Allora, ricordiamo che nel matrimonio la donna può aggiungere il proprio cognome al proprio cognome quello del marito. Nell'unione civile, ovviamente, essendovi identità di sesso, perché ricordiamo, è giusto ribadirlo perché c'è ancora un po' di confusione sul tema, è un istituto riservato esclusivamente a persone dello stesso sesso. Quindi le parti possono dichiarare di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo ovviamente tra i propri cognomi personali. È anche possibile che uno dei partner decida invece di anteporre o di posporre al cognome comune il proprio cognome. E questa diciamo che è una disciplina che viene un po' mutuata dall'ordinamento spagnolo. Ah sì, infatti. Forse ne avevamo parlato anche in un'altra puntata proprio a proposito di quelle persone che scelgono appunto di prendere entrambi i cognomi da mamma e papà per tutta una serie di motivazioni personali. Allora, prima di andare a leggerle alcune domande di alcuni ascoltatori al 349-238-6666, c'è Marcello e c'è Serena che ci fanno due domande appunto molto interessanti, le chiedo il tema del regime patrimoniale, notaio Abate. Comunione o separazione dei beni? La domanda si pone anche nel caso dell'unione civile, va stabilito qualcosa prima dell'unione in sede di appunto formalizzazione dell'unione civile, in che momento? Assolutamente sì, anche qui c'è un rinvio totale alle norme sul patrimonio perché in assenza di una diversa scelta dai partner si instaura il regime della comunione dei beni, quindi in maniera speculare a quanto accade nel matrimonio, diversamente invece da quanto accade con riferimento ai contratti di convivenza, come pure disciplinati dalla legge Serena. Notaio Abate, le capita di dare delle consulenze a coppie appunto che vogliono unirsi secondo il nuovo istituto dell'unione civile? Le capita di dare consulenza già su questi argomenti, data anche la sua competenza che sta proprio approfondendo in questo campo? Devo dire che mi capita spesso, più che con riferimento alle unioni civili, con riguardo ai contratti di convivenza, perché con riguardo ai contratti di convivenza è di fondamentale importanza rivolgersi al notaio, perché il contratto di convivenza è un, possiamo dire, una sorta di contenitore vuoto che deve essere riempito con disposizioni che attengono tanto agli aspetti personali, tanto agli aspetti patrimoniali, certo. E in questo caso, ecco, di fondamentale importanza avere una guida di un pubblico ufficiale che possa indirizzare la scelta nel modo più giusto, perché come lei ben sa le conseguenze possono essere anche pericolose sotto alcuni aspetti, dal momento che anche le unioni, le convivenze di fatti, al pari del matrimonio, come iniziano, così possono avere. Certo, no, tra l'altro poi è il campo anche che per voi è piuttosto naturale, visto che per primi qualche anno fa avete provato proprio a suggerire. Noi, esatto, la ringrazio per averlo ricordato. Nel 2013 noi, quando non ancora esisteva un impianto normativo, abbiamo dato vita nel novembre del 2013 ad un open day dedicato alle convivenze di fatto, e ritengo che in questo il notariato italiano sia stato antesignano, un'intera giornata in cui ci siamo messi a disposizione dei cittadini per fornire delle indicazioni di fondamentale importanza, perché si incide su materie che riguardano i diritti intangibili dei cittadini. E a questo proposito mi permetta solo di dire che io, come responsabile del notariato sociale, ho organizzato un grande evento per la prossima primavera, aperta a tutti i cittadini e alle associazioni di categoria, in cui approfondiremo il tema delle unioni civili e dei contratti di convivenza, certo, come pubblici ufficiali che esercitano una pubblica funzione in nome della Repubblica Italiana e che sono a servizio costantemente dei cittadini. Le nuove frontiere del notariato nel sociale. Ritorniamo intanto ai casi pratici dei nostri ascoltatori, notaio Abbate. Allora, invitando ancora gli ascoltatori, se vogliono, ad intervenire all'800 24 00 24, giro la domanda che ci fa Serena, che ci chiede: vorrei sapere se l'unione civile, se con l'unione civile si acquisisce vincolo di parentela, e quindi se poi si può costituire o meno un'impresa familiare, notaio. Sì, l'impresa familiare assolutamente sì, anzi l'impresa familiare è una caratteristica che viene riconosciuta non soltanto all'unione familiare, ma all'unione civile, ma anche ai contratti di convivenza, cioè si può assumere il ruolo di collaboratore nell'ambito dell'impresa familiare, perché è stato aggiunto un articolo nel Codice Civile, che è l'articolo 230-ter. Quindi assolutamente sì, la persona unita all'unione civile entra a far parte nella compagine dell'impresa familiare. Certo, Nicoletta leggeva qualcosa su WhatsApp. Ascoltatore ci chiede se spetta anche il congedo di 2 settimane. C'è tutta la disciplina, quindi, appositamente specificata sul congedo, per esempio, matrimoniale, no? Notaio Abbate. Sì, perché a questo riguardo va detto come i 3 decreti legislativi non hanno apportato alcuna modifica alla disciplina fiscale delle unioni civili, e quindi l'articolo 20 della legge Cirinna sancisce l'applicazione di tutte le disposizioni che riguardano il matrimonio, quindi tutte le agevolazioni fiscali che sono previste per il coniuge ad oggi sono estese anche alla persona unita all'unione civile. Ecco, qualche precisazione invece va fatta a proposito delle regole ereditarie, adesso ci arriviamo, mentre Marcello faceva un pochino di polemica al 349-238-6666 sul tema della pensione di reversibilità. Notaio Abbate, come è disciplinata questa aspetto così importante, perché effettivamente forse la norma sulla unione civile è stata introdotta anche proprio con la finalità di tutelare quelle coppie che sono state per tutta la vita insieme, magari hanno anche condiviso e appoggiato il reciproco percorso professionale, poi naturalmente uno viene a mancare in una coppia regolarmente sposata, secondo il matrimonio appunto tradizionale, la pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite. In questo caso come funzionerà? Guardi, anche qui possiamo dire con sicurezza che il partner costituente dell'unione civile ha il medesimo trattamento pensionistico che la legge prevede per i coniugi. Di conseguenza l'equiparazione è assolutamente totale. Allora, la successione come funziona? Mi rendo conto che qua apriamo un capitolo che avrebbe bisogno di una trasmissione a parte, però insomma i 3 capisaldi magari della norma quali sono? Quelli assolutamente chiari. Anche qui, come diciamo, il successione d'eredità, sì. Al partner superstito, quindi superstite, quindi in caso di decesso dell'altro partner che ha costituito l'unione civile, i medesimi diritti ereditari che competono al al coniuge superstite, secondo le disposizioni che vengono dettate dal codice civile. Quindi il partner di un'unione civile assume lo status di erede legittimario, cioè di erede necessario che acquisisce il diritto ad una parte del patrimonio del proprio partner che dovesse morire. Diversamente invece nell'ambito dei contratti di convivenza, perché nella formulazione originaria della legge Cirinnà vi era un riferimento anche ai diritti ereditari per i conviventi che avessero stipulato un contratto di convivenza. Nella formulazione invece poi, come uscita dal voto parlamentare, non sono riconosciuti i diritti ereditari a favore del convivente, se non il diritto di abitazione con determinati limiti temporali. Quindi in questo caso è necessario ricorrere allo strumento testamentario, rivolgersi al notaio, certo, qualora si voglia avere la certezza di poter destinare una parte del proprio patrimonio al proprio convivente. Abbiamo fatto tutto il percorso dell'unione civile, ci manca, notaio, l'eventuale possibile scioglimento, perché anche qua c'è una disciplina specifica contemplata appunto dalla legge, ci sono dei diritti economici spettanti a seguito dello scioglimento dell'unione civile che sono differenti in base alla causa che determina lo scioglimento del vincolo. Esattamente. Beh, in caso di abbiamo parlato nel caso di scioglimento per decesso, e quindi vi è l'applicazione totale delle norme sul matrimonio. Per quanto riguarda lo scioglimento, perché decisione unanime di porre fine all'unione civile, vi è un rinvio anche qui alle disposizioni della legge sul divorzio, la numero 898 del 1970, però ricordiamo come non esiste la fase della separazione. Questo è un aspetto fondamentale, sì, laddove invece si applicano le normative sul divorzio. E in questo caso, come le dicevo, il legislatore ha ritenuto opportuno equiparare anche sotto l'aspetto della cessazione degli effetti la normativa delle unioni civili a quelle dei matrimoni, con la precisazione che il divorzio non può avvenire prima di 3 mesi da una dichiarazione resa allo Stato civile. Chiarissimo. In corner arriva Alberto dalla provincia di Forlì e Cesena, deve farci la sua domanda in 2 secondi. Alberto, veloce, grazie. Molto semplice, noi abbiamo fatto l'unione civile tramite avvocato, è legale o è necessario rivolgersi da un notaio? Mi scusi Alberto se la domanda le sembra inappropriata, un'unione civile con una persona del suo stesso sesso, con una... Chiaramente con uno stesso sesso. Ecco, grazie, notaio Abate. No, le unioni civili vanno rese dinanzi al pubblico ufficiale. Ufficiali dello Stato, ufficiali dello Stato civile. Per quanto riguarda i contratti di convivenza invece, che è un istituto che vale sia per persone dello stesso sesso che per persone di sesso diverso, è vero che il contratto di convivenza può essere redatto tanto da un avvocato quanto da un notaio, che è il pubblico ufficiale per antonomasia, ma ricordiamo, questo è molto importante, quando un contratto di convivenza contenga delle disposizioni che afferiscono ai diritti patrimoniali, al trasferimento dei diritti immobiliari, resta ferma la competenza esclusiva del notaio, che è l'unico soggetto deputato ad operare nei registri immobiliari e nei registri dello Stato civile. Certo. Quindi per avere la certezza di avere l'assistenza di uno soggetto imparziale che agisce in nome della Repubblica Italiana, è doveroso rivolgersi al notaio. Notaio Abate, grazie per essere stato con noi. Le girerò un bel po' di domande con delle richieste di approfondimento un po' più articolate. Ci sentiamo presto. L'ABC delle unioni civili oggi abbiamo fatto, insomma, molto interessante. Intanto siamo pronti per la borsa e poi... Sì, e poi parleremo di epatite C. A tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Cuore e Denari. Ci ha messo la faccia Riccardo Montolivo, insieme a lui Ciro Immobile, che è l'attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana. Deborah, io e te non siamo tanto preparate. No, se mi sente mio nipote che non so niente, sai che lisciata che mi dà. Comunque Laura Vanossi ci ha ben istruito. E poi l'allenatore ed ex calciatore Hernan Crespo, il campione olimpico, questo lo sappiamo. Oro nel fioretto a Rio 2016 Daniele Garozzo, poi il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio e la conduttrice e scrittrice, che salutiamo, Rosanna Lambertucci. Sono i testimonial di Vogliamo Zero Epatite C, lanciata da EPAC Onlus. È una campagna di informazione e di sensibilizzazione sulla malattia e anche sulle nuove cure. Ne parliamo oggi insieme al dottor Stefano Fagioli, direttore di gastroenterologia e patologia e trapiantologia all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Buongiorno, bentornato e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti e grazie a Nicoletta e Debora, è un piacere essere ancora qui con voi. Grazie, allora dottor Fagioli, facciamo un po' il punto della situazione. L'epatite C è una malattia cronica, è causata dall'infezione del virus HCV che spesso non presenta, ahimè, sintomi evidenti, ma nel tempo può portare a un progressivo peggioramento con danni purtroppo molto seri al fegato, ma anche a tutto l'organismo. Allora, si tratta di una delle patologie infettive trasmissibili più diffuse al mondo e molti contagi, lo sappiamo, potrebbero essere evitati. Dato che la prevenzione, dottor Fagioli, l'abbiamo detto spesso, passa attraverso l'informazione, io partirei con il ricordare come si trasmette questa malattia. La prima informazione è che è un'infezione che si trasmette attraverso il contatto con del sangue infetto, che può entrare nel circolo sanguigno veicolato da aghi, da oggetti appuntiti, oggetti taglienti contaminati. Le storiche cause di contagio sono attribuibili alle trasfusioni di sangue fatte fino al 1989-90, quando è stato scoperto il virus, o gli emoderivati, però anche allo scambio di siringhe in caso di uso di droghe iniettive, per esempio. Ma ricordiamoci che la grande epidemia italiana è stata l'uso promiscuo di siringhe non per scopi ricreativi, ma semplicemente perché c'era l'abitudine e l'usanza di avere la siringa in comune, in un villaggio, in un paese, in un condominio, sì. E quindi anche nelle famiglie, quelle che bollivamo nel pentolino, certo, che è sufficientemente vecchio se le ricorda. Sì, sì, e dopo sì. Ovviamente tutte quelle azioni come chirurgia estetica, odontoiatrica, tatuaggio, body piercing, che siano effettuati in maniera non controllata, ed è chiaro che questi erano e restano i fattori di rischio importanti. Allora, veniamo ai dati. Nel nostro paese il numero esatto non si conosce, anche se una recente indagine condotta sul numero di esenzioni per patologie porta a supporre almeno 300.000 casi diagnosticati. Parliamo di casi diagnosticati a cui però dobbiamo aggiungere il sommerso, quindi persone che hanno l'infezione ma non sanno di averla. Dottor Fagioli, le tornano i conti? Ma purtroppo le stime ufficiali riportano dei numeri che sono clamorosamente esagerati, addirittura parlavano di 1.800.000-2 milioni di persone. C'hanno il difetto che sono basati su studi vecchi e su popolazioni che quando sono state fatte erano già vecchie, e quindi essendo l'invecchiamento una delle condizioni inevitabili della vita, chi era già vecchio 30 anni fa potrebbe non essere portatore dell'infezione oggi per ovvi motivi di sopravvivenza. E questo è un problema, perché ci manca l'epidemiologia vera, e lo studio che è stato fatto da EPAC ha fatto una cosa molto semplice, ha cercato di vedere chi sono quelli che, avendo un'esenzione, in qualche modo sono conosciuti dal sistema. Il sommerso, io sono tra quelli che pensa non ce la faccia di sicuro a raddoppiare quei numeri, sarà molto probabilmente più basso di quello. Però sono stime. Quello che è certo è che noi gli unici che possiamo trattare sono quelli che conosciamo, e la cosa migliore che possiamo fare è implementare un sistema per scoprire chi ce l'ha. Perché ogni anno circa 1 miliardo di persone comunque se la prendono questa infezione, certo. Perché se circola si trasmette. E soprattutto ogni anno una piccola cittadina, l'equivalente di una piccola cittadina di 10.000 abitanti, scompare, perché questo è il numero di morti per complicanze della cirrosi o del tumore del fegato da virus C. Quindi qualcosa di diverso dobbiamo fare. Assolutamente, iniziando a informare e quindi a conoscere. Tra l'altro, dottor Fagioli, l'immagine di un piccolo paese che scompare ci dà bene la misura, riusciamo a visualizzare questo problema. Purtroppo è una malattia subdola che non è spesso facile da intercettare, almeno nelle fasi iniziali. Questo è un aspetto che non va sottovalutato e di cui noi dobbiamo essere ben informati, dottor Fagioli. Ma certamente il punto vero di questa infezione è che nella sua fase acuta non è niente che di diverso da una banale sindrome influenzale, quindi è facilissimo che vada misconosciuta da questo punto di vista. Quindi che cosa avverto? Febbre, dolore muscolare? Ma delle cose assolutamente specifiche. Dell'influenza normale. Esatto, assolutamente specifiche. E poi quando la malattia cronicizza c'è una lunga fase in cui non ci sono sintomi. A volte neanche a specifici, è completamente silente. Il fegato è un organo che perdona tantissimi insulti, sì, e fino a che non è davvero molto danneggiato in maniera avanzata, di fatto non dà nessun segno di sé. Diventa cruciale a questo punto identificare i pazienti a rischio di averla contratta o a rischio di poterla contrarre adesso, perché è solo testando prontamente e trattando con successo questi che eviteremo le sequele di malattia. Noi fino adesso abbiamo fatto diagnosi su chi presentava di fatto i sintomi di malattia, che per definizione è tardi in questo contesto. Dottore, lei ha detto a rischio di averla contratta, a rischio di poterla contrarre. Allora, possiamo fare magari un identikit di questi due gruppi di persone? Ma certamente, come abbiamo detto prima, nella storia di un paziente ci sono emotrasfusioni, emoderivati, comportamenti a rischio come scambio di siringhe o interventi estetici o curativi in ambienti non sicuri e non protetti, o un tatuaggio fatto in un posto assolutamente inadeguato, sono fattori di rischio. E dopodiché ci sono i fattori di rischio di questo nuovo millennio, che sono il vivere in comunità, il vivere in un ambiente carcerario, la tossicodipendenza e in alcune situazioni molto estreme, ma sono una sacca che va tenuta in considerazione, ci sono certe pratiche sessuali molto aggressive e molto traumatiche che possono comportare un rischio, perché dobbiamo ricordarcelo, la trasmissione sessuale tra coppie monogame stabili di fatto non comporta un rischio di trasmissione. 800 24 00 24, se volete intervenire con noi, parleremo naturalmente anche dei nuovi farmaci. Ma dottor Fagioli, abbiamo detto che progressivamente il fegato accusa dei danni molto seri e poi in generale che si estendono a tutto l'organismo. Quali sono, come evolve l'infezione? Si arriva alla cirrosi? Qual è l'iter di un'infezione non trattata nelle fasi iniziali? Certo, la malattia ha un alto tasso di cronicizzazione, diventa cronica l'infezione, progressivamente dà questi micro danni nel fegato per cui muoiono delle cellule e si riparano con delle cicatrici. Immaginiamo come se ogni giorno ci facessero un taglietto sulla cute e si riparasse con una cicatrice che in qualche modo altera l'aspetto della nostra cute. Bene, nel fegato l'aspetto è alterato, ma ha una diretta conseguenza anche nella funzione, perché quante più sono le cicatrici, tanto peggio funziona l'organo, tanto peggio circola il sangue all'interno dell'organo e tante più cellule nobili, gli epatociti, muoiono e sono sostituite da cicatrici, fino al momento in cui le cellule che lavorano per svolgere le mille attività del fegato diventano insufficienti e allora non svolgono più quelle attività che sostengono la vita, per cui non producono le proteine, i fattori della coagulazione, certo, e si innescano le complicanze della cirrosi, che ovviamente sono clamorose dal punto di vista del rischio di mortalità, ma soprattutto abbattono clamorosamente la qualità di vita delle persone. Dottor Fagioli, tra poco andiamo alle informazioni sul traffico e subito dopo parleremo dei nuovi farmaci, ma quali sono gli esami che permettono di fare diagnosi? Basta un esame del sangue? Sì, adesso abbiamo addirittura anche dei test rapidi, c'è addirittura un test che si fa con la goccia di sangue, per cui si possono veramente fare dei test molto semplici. Il primo test da fare quando si ha un soggetto che ha un potenziale rischio è il banale test per definire se ci sono gli anticorpi anti-HCV. Quello è il punto di partenza da tutto. Se quelli risultano positivi, poi si approfondisce per capire che tipo di virus è, che quota replicativa ha, che tipo di danni ha fatto al fegato e si costruisce il profilo del paziente e l'immediata informazione di qual è l'eventuale urgenza o meno di accedere a una terapia. Dopo quanto tempo da un rapporto a rischio posso sapere con certezza se ho preso l'infezione, sono stata colpito dall'infezione oppure no? Questo le traduco una domanda che è arrivata via WhatsApp. C'è un periodo finestra? Fino a 3-6 mesi è possibile questo rischio, anche se, ripeto, il rapporto a rischio è una definizione che è un molto po' generica. Nel senso che, ripeto, non basta la stessa idea di rischio che abbiamo nelle malattie sessualmente trasmissibili, è la promiscuità e le pratiche traumatiche, quelle comportano un reale fattore di rischio. Allora, noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme, a tra poco. Cuore e denari. Ecco, siamo tornati insieme. Oggi stiamo parlando di strategie per l'eliminazione dell'epatite C. A questo proposito, la campagna Vogliamo Zero Epatite C, oltre a informare e sensibilizzare sulla malattia e sulle gravi complicanze, vuole anche e soprattutto far sapere che oggi di epatite C si può guarire grazie a nuovi farmaci a cui sino ad ora hanno avuto diritto di accesso i casi più urgenti. Insomma, si è deciso di mettere in sicurezza chi potenzialmente rischiava davvero la vita, trattandolo prima. Ora si può proseguire, direi, in modo più sereno, ce lo auguriamo. L'AIFA nei prossimi mesi dovrebbe anche ampliare i criteri di accesso alle nuove terapie, così da consentire di trattare in modo scaglionato pazienti meno gravi, arrivando progressivamente a trattare tutti i pazienti con HCV. C'è ancora sicuramente tanta strada da fare e ci sono anche molti ascoltatori che sono intervenuti già all'inizio della puntata a questo proposito, all'800 24 00 24. Dottor Fagioli, sono stati... Allora, la strada da fare è ancora tanta. In ogni caso qualcosa si è fatto, si sono fatti dei passi avanti. Si poteva fare meglio, di più? Il nostro paese, insomma, è stato all'altezza di gestire la situazione? E glielo chiedo sia dal punto di vista clinico che ministeriale. E diamo poi subito dopo la parola ai nostri ascoltatori. Sentiamo il parere di un addetto ai lavori e poi sentiamo anche Ambrogio che ci chiama da Roma. Buongiorno intanto, Ambrogio. Dottor Fagioli, che dice lei da clinico? Sì, io credo che in questo campo l'Italia abbia compiuto una scelta ottima, partendo dal presupposto che comunque non si sarebbe potuto organizzativamente trattare tutti e subito, ha deciso di fronteggiare l'urgenza, permettendo di trattare i malati più gravi e di fatto a rischio di vita o di gravi complicanze. E questo ha permesso di ridurre mortalità e molte complicanze severe. E questo l'abbiamo fatto, ricordiamocelo, perché abbiamo avuto la possibilità di usare farmaci che ci hanno consentito un successo terapeutico di oltre il 95%, è una cosa rarissima in medicina, di fatto senza effetti collaterali concreti, con durate attuali di terapia che sono di 2 o 3 mesi. E altro piccolo ma non insignificante dettaglio, la politica messa in atto dall'Italia ha portato i costi reali attuali di questi farmaci ad essere veramente crollati rispetto ai prezzi iniziali. Il risultato è che in Italia sono state trattate oltre 65.000 persone, 95% di successo, ripeto, ma soprattutto c'è stata molta omogeneità e appropriatezza di decisione su tutto il territorio e credo che il sistema abbia dato un esempio di maturità e professionalità e forse ogni tanto è giusto darne atto che non è una cosa così sempre scontata nel nostro paese. Ora c'è però bisogno di cambiare passo, di fare qualcosa di diverso. Il WHO ha fatto una risoluzione nel 2016 che invita i paesi affiliati, l'Italia è uno di questi, a impostare delle strategie per eliminare l'HCV, perché si può fare e per farlo e per cambiare passo dobbiamo far emergere il sommerso e quindi dobbiamo incrementare il numero di pazienti avviati a una valutazione e incrementare di fatto il numero di pazienti trattati progressivamente e dobbiamo concettualmente trasferirci dal trattare la malattia al trattare l'infezione, con una politica di diagnosi e trattamento che ci permetterà di ridurre le nuove infezioni e quindi la trasmissione, certo, di abbattere la progressione di malattia e in ultima analisi migliorare la qualità di vita delle persone. È una bella sfida, ma credo che l'Italia sia nelle condizioni giuste per farlo. Parliamo di farmaci che sono in grado, posso usare la parola eradicare il virus, cancellano l'infezione? Magari, noi per il momento parliamo di eliminazione, dal punto di vista semantico vuol dire che di fatto l'impatto epidemiologico è prossimo allo zero, eradicare vuol dire che non c'è proprio più, è come un po' il vaiolo, per certo. Quello è stato eradicato, eliminare è un po' meno ambizioso ma mi pare sufficientemente impegnativo. Allora, andiamo ad Ambrogio, buongiorno Ambrogio, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. No, io ho telefonato per un motivo. Io sono 20 anni che ho scoperto di questo HCV genotipo 1B e mi sono adeguato con uno stile di vita per poter contenere il malanno. E naturalmente dopo 20 anni non si sa io quando potrò riuscire ad essere inserito nella schiera di persone che possono hanno diritto appunto. Considerando che tra l'altro il valore di FibroScan e quindi della cirrosi è contenuta tra i 4 e i 6 di valore, no? Dal FibroScan. E allora mi hanno detto sì, ma lei sta bene, sì. Allora ho detto, visto che sono calati i prezzi, come è stato detto poco fa, dei farmaci, se io potessi acquistarmi questo farmaco, come posso fare? Visto che sono calati di una percentuale enorme, dagli 80.000 mi pare che siano arrivati ai 16.000 di euro di costo della terapia completa. Allora, intanto ringraziamo Ambrogio che con la sua domanda, dottor Fagioli, ripropone un tema declinato da un punto di vista che lei conosce bene, che è certo. Quello del paziente che, preso atto della situazione, che ci sono dei farmaci che è in grado di eliminare l'infezione, perché non la elimina al 100%, non si può parlare di eradicazione, ma i risultati sono sicuramente molto importanti, e è lì che deve aspettare e si sente tagliato fuori perché non rispetta i criteri per ricevere questi farmaci. E intanto è impaziente. Poi arriveremo anche naturalmente ai casi di persone che hanno deciso di acquistare all'estero il farmaco certo. Per salvarsi la vita. Dottor Fagioli, intanto le lascio rispondere ad Ambrogio. Io purtroppo ho una brutta notizia da dargli, nel senso che sono la persona più sbagliata a cui fare questa domanda, perché io mi faccio quasi vanto di non aver mandato nessun paziente a comprare nessun farmaco altrove. Perché dico questo? Perché chiunque avesse necessità di questi farmaci per evitare il rischio di morire o per evitare un rischio pericoloso di progressione della malattia immediato rientrava nei criteri e è stato trattato. Per chi si trova nelle condizioni del radioascoltatore che ha appena chiamato e i valori di riferimento che ci ha riportato dicono chiaramente che il suo rischio clinico non si misura né in mesi né forse neanche in anni, forse si misura in lustri, ci permette di avere la serenità di dargli una risposta che però vogliamo dargli, e cioè non so se ti potrò trattare o non ti tratteremo, ma sarai trattato in un momento della tua vita che sarà sicuramente precedente al rischiare di sviluppare delle complicazioni o un'evoluzione di malattia che abbia un impatto per il resto della tua vita. Questo è una sorta di patto sociale che ciascun medico deve fare con i pazienti, perché è sull'aspetto emotivo e ansiogeno di questa malattia che si porta dietro una stigmatizzazione sociale che noi non dobbiamo fingere di non conoscere. Certo. Non dobbiamo accontentarci di dire ai nostri pazienti stia tranquillo, non muore, non tocca a lei. Dobbiamo accompagnarli in un percorso, perché per alcuni questa presa d'atto non è così facile nella quotidianità e siamo gli unici che possono dargli quel supporto che gli serve per evitare di andare a cacciarsi in situazioni o economicamente pericolose o dal punto di vista medico pericolose, perché acquistare su internet o acquistare in ambienti sconosciuti comporta dei rischi, e io come tutela per i miei pazienti devo anche pensare a questo. Allora, abbiamo un minuto e mezzo per una battuta, ci ha raggiunto anche Ivan Gardini, presidente di EPAC, buongiorno. Grazie, ha sicuramente sentito la domanda di Ambrogio e la risposta del dottor Fagioli. Qual è la posizione di EPAC? Io vorrei essere un pochino più pratico. 80.000 euro, parliamo di prezzi altissimi. Il discorso dei 15.000 euro, parliamo di quello che compra il sistema sanitario nazionale, che è tutta un'altra faccenda, dove purtroppo il paziente non può accedere a questi prezzi, il sistema sanitario nazionale non può vendere ai privati. Quindi non è che i prezzi di listino sono scesi. La sentiamo un po' male, ma se vuole riassumere, poi prendiamo una sua dichiarazione da mettere sulla pagina del nostro programma. Ivan, in 30 secondi, poi continueremo naturalmente sulle pagine. Mi dica, però si sente male il suo intervento. Vada? Ecco, proviamo. Sì. No, stavo facendo la differenza tra il prezzo di listino e il prezzo, diciamo, che acquista il sistema sanitario nazionale, che sono ovviamente due sistemi di acquisto molto diversi. Allora, se volete conoscere naturalmente la posizione, il punto di vista di EPAC e di Ivan Gardini, tra poco trovate l'intervista sulle pagine di Cuore Denari. Salutiamo il dottor Fagioli, lo ringraziamo per essere stato con noi. Noi ci risentiamo domani alle 10.30. Buona giornata a tutti.